Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Novembre e dicembre del 1848. Roma ha assassinato il ministro dell'Interno, il Papa in fuga a Gaeta. La Francia repubblicana elegge il suo presidente, un Bonaparte. E a Vienna Francesco Giuseppe diventa imperatore, ma in città si parla solo degli Strauss. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. L'apertura è dedicata naturalmente all'assassino politico che ha insanguinato il novembre romano e che ha portato il Papa a lasciare la città, la cronaca. Lo hanno ammazzato con una coltellata alla gola sulle scale del Parlamento di Roma. Coprendo l'agguato con i mantelli, una cinquantina di ex combattenti volontari hanno colpito a morte Pellegrino Rossi, il ministro dell'Interno scelto dal Papa per cercare un punto d'equilibrio. In fondo è dalla allocuzione non semel del 19 aprile con cui Pio IX ha ricusato una guerra diretta contro l'Austria che a Roma il clima era cambiato. La tensione è cresciuta mese dopo mese. La politica patriottica del ministro dell'interno Terenzio Mamiani era entrata in rotta di collisione con le preoccupazioni di Pio IX: non esacerbare il rapporto con l'Austria, evitare uno scisma, garantire il ruolo terzo della Chiesa senza negare una certa simpatia per le aspirazioni nazionali italiane. Dopo le dimissioni di Mamiani, il 21 luglio, e l'inutile tentativo del vecchio murattiano Edoardo Fabbri, il Papa aveva scelto l'ex ambasciatore di Luigi Filippo, Pellegrino Rossi, un liberale moderato, molto competente, ma sprezzante, e odiato tanto dai reazionari quanto dai democratici che ormai dominano i circoli della città eterna. Fino a che punto lo si è visto il 15 novembre. Dopo l'attentato il Parlamento non si è neppure riunito. La sera gruppi di ultrademocratici hanno festeggiato l'omicidio. Il giorno dopo il Papa ha rifiutato di concedere un ministero più progressista sotto la pressione della folla e il popolo di Roma ha dato l'assalto al Quirinale. A quel punto il Papa si è piegato e ha nominato un ministero liberal-democratico guidato da Monsignor Muzzarelli. Ma pochi giorni dopo, il 24 novembre, è fuggito da Roma e si è rifugiato a Gaeta sotto la protezione del re delle due Sicilie. Da qui il 3 dicembre ha lanciato un breve che ha sconfessato il suo stesso governo, che aveva appena convocato a Roma un'assemblea costituente nazionale degli stati italiani. Ogni tentativo di accordo tra il pontefice in esilio e l'esecutivo di Roma è fallito. Nella città eterna corrono i democratici e già si parla di una nuova forma di stato nei domini pontifici. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Intanto la Francia repubblicana ha tenuto le sue prime elezioni. Il candidato socialista Ledru Rollin e quello repubblicano Cavignac sono stati sconfitti da Luigi Napoleone Bonaparte, che ha ottenuto la bellezza di 5 milioni di preferenze contro il 1.400.000 dello stesso Cavignac. A Vienna, intanto, ha abdicato l'imperatore Ferdinando e sul trono è salito il giovane Francesco Giuseppe. In città si parla d'altro, però, sia delle vicende della famiglia Strauss. Mentre Johann Strauss, padre, canta l'impero e ne è un fedelissimo, il figlio omonimo, che molti ritengono un vero genio del valzer, sta di fatto compromettendo la sua carriera a corte. Ha diretto in un concerto pubblico l'esecuzione dell'inno francese, la Marsigliese, il giorno dopo l'incoronazione di Francesco Giuseppe. È stato arrestato e segnalato nei verbali di polizia. Ed è tutto, vi invitiamo come sempre a visitare il sito di Radio 24, da dove potete scaricare il nostro foglio quotidiano, il nostro giornale, dove trovate immagini e notizie. Visitate il blog, la pagina Facebook, lasciateci un commento là oppure a gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza. Una buona giornata.